You're listening to Rock FM, kick ass. Dunque, pronti a svelare l'arcano di quest'oggi? Domanda riguardante John e Yoko, che nel 1969 iniziarono una particolare protesta pacifista contro ogni tipo di violenza nel mondo. E allora forse tentarono di piantare 350 cipressi a Central Park, fermati dalla polizia quando le due ruspe iniziarono a scavare il terreno? No, la risposta non è giusta, anche se però inviarono ghiande, un seme di ghianda da piantare in quanto simbolo di pace ad ogni potente, ad ogni capo di Stato nel mondo. C'eravamo vicini. E allora forse si misero a spacciare spinelli arrotolati in cartine che riproducevano la bandiera militare inglese a Westminster? Anche in questo caso risposta è sbagliata. Se ne facevano sicuramente tanti, forse non con le cartine riproducenti la bandiera inglese, ma anche questa è sbagliata. E allora è lì il celebre, il famoso Bedin. Quella è la risposta giusta, la 3. La numero 3, infatti, decisero Yoko and John, John and Yoko, di trascorrere la loro luna di miele in un grande albergo di Amsterdam, protestando contro la guerra in ogni angolo del mondo. War is over if you want it. Avvenne nella settimana tra il 25 e il 31 marzo del 69. Ricordiamo che all'interno di questo episodio, che viene ricordato come Bedin, incisero anche il brano Give Peace a Chance, uno dei primi singoli targati Plastic Ono Band. All we are saying is give peace a chance. Insieme. All we are saying is give peace a chance. Anche voi adesso. Tutti insieme. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. inizione, che inizione, inizione per gli ultimi 20 minuti di diretta. All we are saying is give peace a chance. John e Yoko nel loro talamo nuziale nell'albergo di Amsterdam, così ricordati nel test attitudinale di quest'oggi. Sempre l'augurio di una buona giornata dalla voce dell'Ariele, in regia il nostro buon spadino Roberto Fricantoni. Andiamo a concludere in quest'ultima mezz'ora la puntata numero 100 dall'inizio delle trasmissioni di Pane, Burro e Rock and Roll. Ne abbiamo già combinate di cotte e di crude quest'oggi, ma vi ho annunciato una nuova rubrica che andrà in chiusura della puntata di oggi, quindi non perdetevela, roba forte. Un saluto intanto a Valentina. Le battute di Fricantoni alcune volte mi sembrano quelle di Groucho, l'assistente di Dylan Dog. Buona giornata fuori di testa. Odio gli speaker che fanno i saputelli, che sgridano così, ma faccio sapere a Valentina, nel caso non lo sapesse, di andare a vedersi i film dei fratelli Marx, che lì scopri il vero Groucho Marx. Altro che battute di Fricantoni, senza offesa Frick, eh? Però i fratelli Marx non me li toccate, ok? La guerra lampo dei fratelli Marx, un must. Mi fanno impazzire a me i fratelli Marx. Va bene, Valentina, segnatelo, appuntatelo, potrebbe essere un buon film da vedere. J110, così si firma, presumo un patentato numero 110. Non ho mai sentito nessuno che in radio abbia messo lo stesso pezzo, magari preferito, per almeno due volte. Perché non entri nella storia? Mi fido di te. Cos'è, una sfida? Si potrebbe inventare, però. Un giorno facciamo due ore con lo stesso pezzo. Potremmo farlo se si può entrare nel Guinness dei primati, eh? Ci lavoreremo. Ci piacerebbe entrare nel Guinness, sì. Sembra carina come idea. C'erano almeno un paio di segnalazioni di richieste di strombazzata per... adesso ovviamente non li ritroverò più. Il primo è questo. Nick me lo chiede per il papà. Eccolo fatto. E ce n'era un altro. No, perché non li ritrovo mai? Mannaggia, siete in troppi. Era anche lui per una questione un po' di ospedale. Amico, lo sai che sei tu, eh? La strombazzata è per te. Ti fidi? Dopo lo ricerco. Intanto guardate dove mi cade gli occhi. Ci vorrebbe un Fricantoni per uno da tenere sul cruscotto, che gli schiacci la testa e ti canta Ehi Giuditta. Elisa. Non ve la meritate questa trasmissione, amici. Ascoltate dell'altro che vi fa meglio. Vi fa meglio. 8 e 39 minuti primi. T-Rex. 20th Century Boy. Pane, burro, rock and roll. Thank you. Pane, burro e rock and roll, la trasmissione su Rock FM che si occupa anche dei problemi reali, problemi attuali e non solo discorsi virtuali, problemi concreti, il problema della casa. Lei, Frick Antoni, ha centrato il bersaglio in pieno. Quest'oggi siamo vicini a quanti saranno là fuori ad avere un problema con il mutuo, con la casa da comprare. L'abitazione, un problema di scottante attualità. Ringraziamo la nostra redazione nello spazietto, nell'angolino dedicato alle cosiddette ansie in ansia, le notizie che tutti hanno giustamente scartato e noi abbiamo giustamente recuperato. Andiamo con una notizia che recita più o meno così: caro mutuo, e faccio il gesto dell'ombrello, ti frego, la casa me la faccio di cartone. La casa di cartone, colpo di scena. Che fare, lei mi chiederà, contro il caro prezzi, che fare? Nessun problema. Una soluzione, se così si può dire, l'hanno trovata due architetti australiani al momento dell'Australia, Peter Stuckchamberbury e Richard Smith. Anziché comprare una casa tradizionale fatta di mattoni, cemento e travi, si può investire in un immobile fatto di cartone. Nessuno tenta di proporvi di andare a vivere sotto un ponte, sia chiaro. I due hanno inventato una struttura non utilizzando le tradizionali materie prime, bensì il cartone. Caratterizzata da una struttura realizzata con materiali completamente riciclabili, è facile da trasportare e da montare e bastano 6 ore per costruirla. Il costo? Con $50,000 è possibile diventare proprietari dell'immobile in versione extra large. Per ora è solo un prototipo, ma visto i tempi che corrono, non è da escludere che la cosa venga commercializzata entro breve. Infatti, la nuova casa di cartone è stata battezzata dai progettisti The Halo Home. Halo, con l'H davanti, è stata concepita come un fabbricato di facilissimo trasporto che possa essere utilizzata anche in caso di emergenza. E quindi è ufficiale, con $50,000 e 6 ore a disposizione. Vi potete portare a casa la vostra nuova, bella casa di cartone. Senta, ma DJ Ariel, mi spieghi, sarà un cartone speciale, trattato? Perché quando piove, viene anche spiegato, quando nevica... È una sorta di palafitta e il tetto e il pavimento sono fatti in PVC. Plastica. Lei si preoccupava delle infiltrazioni. No, io, dico la verità, ci avevo fatto un pensierino. Alla casa di cartone. Alla casa di cartone, per Frick Antoni è la nuova soluzione, ovvero il barbone nella casa di cartone. Che rime, ragazzi, che feeling. You better stop the thing that you do. lei put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Creedence Clearwater Revival. Veloci, veloci, che oggi abbiamo una nuova rubrica strombazzata, però doverosissima. Simo, che oggi si opera. Tra i tanti messaggi che arrivano, segnalo anche 2 ottobre, la festa dei nonni. Anche questo è rock, ci commenta Andrea da Cagliari. Però dicevo, forse in occasione del centunesimo giorno di programmazione di Pane, Burro e Rock and Roll, abbiamo una nuova iniziativa che segue a ruota quella di questa estate delle cartoline postali. Andremo avanti a leggere le vostre cartoline, ma da oggi partiamo con una nuova missione, un nuovo compito. Lo scoprirete tra pochissimi istanti nella diretta di quest'oggi. Facciamo così, ci gustiamo insieme un Elvis Presley dannata e poi la nuova follia di Pane, Burro e Rock and Roll. Ricordatevelo sempre, siamo in squadra con voi. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Nel corso della storia dei premi Nobel, molti italiani hanno vinto questo premio. José Cardull, Ernesto Teodosio Monel, Guglielmo Marconi, Grazia Delenda, Gigi Pirandecco, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montante, Renato Dulbecci, Dario Bo. Ma dopo la candidatura di Roberto Benigni, Pane, Burro e Rock and Roll non ci sta e propone il proprio candidato, Roberto Freak Antoni. L'uomo che ha inventato il rock demenziale merita il giusto riconoscimento. Milano, Via Locatelli 1, studi di Rock FM. La redazione di Pane, Burro e Rock and Roll è al lavoro. Ragazzi, riunione ufficiale, eh? Qua se lo danno anche a Benigni, dobbiamo farlo anche noi. E mi sembra anche giusto. Scusa, candidiamo Freak per il Nobel. Insomma, bisogna farsi venire qualche buona idea. Beh, vabbè. Come si farà ragioniamo per candidarsi? Come avrà fatto Benigni per candidarsi? Beh, Benigni credo sia stato un comitato. Ah. Bisogna formare un comitato. Ragazzi, abbiamo un comitato per... No, siamo in 4. Sì. No, siamo no, pochissimi. Diventa. Poi oggi ci sono molte defezioni, sì, ammalati. Tutti bisognerebbe... avvisare qualcuno, insomma. Redazione, se per favore ti puoi informare. Tra l'altro Nobel è il nome, da quello che so io, cioè il premio Nobel è il nome del signor Nobel, che è lui quello che poi è. Sì, se non sbaglio Alfred Nobel. Potremmo tentare di raccomandarci a lui. Sembra una buona idea. Sì, forse scrivere a lui. Sì, in effetti... Una lettera. Oppure bisognerebbe, non so, punzecchiare, stimolare qualche personaggio del mondo, no, della cultura. Sai cosa facciamo? Una bella lettera al signor Nobel. Te, carta e penna, scrivi. Ma davvero, pensi che... Secondo me è una cosa buona. Signor Nobel, Alfred. Dottor Nobel. Dottor Nobel. Professor Nobel. Mr. Alfred. Tra l'altro bisognerebbe avere un indirizzo. Stoccolma. Ad Alfred Nobel, Stoccolma. Potremmo fare una cosa tipo, vorremmo sottoporle la candidatura di un artista italiano allora, per Nobel? Una P solo, no? Sì, sottoporle la candidatura. Di un artista italiano per il prossimo Nobel. Premio. Esattamente. Premio Nobel. Riteniamo che abbia tutte le caratteristiche. Si chiama Roberto Fricantoni. Nato a Bologna. Ha inventato il rock demenziale. La preghiamo di farci sapere se la cosa preghiamo di risponderci facendoci la cortesia è fondamentale. Cortesemente sapere. Ragazzi, stiamo scrivendo una lettera al signor Nobel, non potete La cosa fermo, scusa. Abbiamo scoperto che Alfred Nobel è nato nell'833. Dai, a 274 anni, accidenti, che scorza! E Frick mi sa che è morto. No, è già morto, non si può vivere. Sarebbe l'uomo più longevo del mondo. No, dobbiamo inventarcene un altro. Sì, sarà per la prossima volta. Però la strada era giusta, candidare Frick. Che c'è? Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop lula, she's my baby. Bebop lula, I don't mean my baby. Bebop lula, she. My baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mind my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Gene Vincent, Bebop Lula. Questa è la fine, è proprio la fine seria. Miei cari amici, manca un minuto e mezzo alle 9 spaccate. Pronto il buon Garavelli per tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Gli appuntamenti del weekend, questo venerdì mi trovate allo Charlotte di Colle Salvetti con Dome la Muerte, e sabato sera invece all'Alcatraz per i 17 anni di Rock FM e consegna delle patenti davvero rocker in compagnia anche del buon Roberto Fricantoni. Andiamo di sigla! chiudiamo la puntata 22, o meglio, la puntata numero 100. E domani si riprenderà con, con il solito tram tram. Pane, burro e rock and roll. Vedo con piacere che nessuno... La tua colazione roll. Che nessuno ha commentato il Nobel ad Antoni. Pane, burro e rock and roll. Vuol dire che dovete ancora metabolizzare la rubrica, tranquilli. Andremo avanti. Noi ci crediamo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed eccolo lì pronto, Marco Garavelli, per le prossime tre ore. Tre ore. Com'è che dici minuti? 180 minuti. 60, 120, 180. Vorrei farlo anche. Io potrei dire 60. No, 120. 120. Sono due le ore. È molto... molto calcio, è come sport. Esatto, un po' sportivo. Primo e secondo. Li puoi dividere nei due tempi. Primo e secondo. Io ho quattro tempi. Quattro tempi più la pausa, quindi. Che roba. Me le appunto tutte ste cose. Da un vecchio professionista come Garavelli dovrei effettivamente... C'è qualche sport che a quattro tempi? Il basket. Va bene, guarda, ci pensiamo. Ci pensiamo per le prossime puntate. L'intervallo tra il secondo e il terzo tempo più lungo. Gli altri c'è il cambio campo. Mannaggia, io di sport non ne ho mai capito niente. Va bene, mi fai delle ripetizioni quando finisci la diretta. Tranne calcio in salita, sei tu il maestro. Io lì proprio. Quello effettivamente. Okay. Puoi dirlo forte, caro Garavelli. Va bene. Buona giornata fino a mezzodì con Garavelli. Ci si risente domani dalle 7 alle 9. Te li tratto bene. Ciao.